La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, la rosa purpurea e Franco D'Assisti, ovviamente in studio qui a Radio 24 per raccontarvi tutto il cinema che c'è pochino, devo dire, in sala questa settimana, ma tanto quello che sta per arrivare con i grandi festival. Del resto è estate, ha voglia dire è l'estate, allunghiamo la stagione, mandiamo dentro dei film più importanti e pipim e pipom. Alla fine siamo qua con un film nuovo nelle sale italiane in questo ultimo weekend di luglio e con tante belle promesse per il futuro. Tra l'altro è saltata all'ultimo momento l'uscita di Crazy Night, che era l'altro film che doveva popolare le sale italiane, anche perché nelle sale italiane stanno andando molto bene alcuni film che ci sono già. È veramente ormai un caso anche quest'anno questo nuovo Spider-Man Homecoming, che è arrivato circa 7 milioni di incasso globale, continua a macinare il suo incasso quotidiano bello sereno e evidentemente sta funzionando il passaparola. È anche vero che non c'è praticamente concorrenza e quindi l'uomo ragno va avanti di suo, come va avanti abbastanza bene anche The War, il pianeta delle scimmie, che sta ottenendo un ottimo gradimento anche di critica, tra l'altro sicuramente di pubblico. Ha superato i 2 milioni di incasso e anche questo è un film che secondo me ci porteremo avanti per tutto il mese di agosto, perché è un film che la gente pian pianino sta scoprendo e sta andando a vedere. Però noi cercheremo di trattare l'attualità cinematografica con motori ruggenti, come dicevo, l'unico film che esce in sala questa settimana con Marco Spagnoli, il regista, fra poco sarà qui con noi. Però affacciamoci anche ai festival, perché questa settimana succede questo: è appena stata presentata la lineup del Festival di Venezia e ne commenteremo, ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo, ma è anche la settimana che introduce al Festival di Locarno, che comincia invece il prossimo 2 agosto e di cui parleremo con il direttore Carlo Chatrian fra qualche istante. E allora io saluto già Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco. Boris, ti trovo alla Maddalena, se non sbaglio, no? La valigia dell'attore, bellissima manifestazione in questo luogo splendido, un po' ventoso, mi dicevi, no? Sì, decisamente, e però capisci anche l'amore che hanno per il cinema in centri che magari no, il cinema non ce l'hanno o ce l'hanno poco. Perché conventi con cui noi non usciremmo neanche, ma non dico con la barca a vela, neanche con un tank blindato, qui vengono a vedersi film anche non facili, perché poi voglio dire Cliente di Oscar Farhadi, La ragazza del mondo con Michele Riondini, Marco Danieli, insomma sono film d'autore molto ricercati che sono usciti in quest'anno, ma come dice il titolo è proprio una rassegna dedicata all'attore, con colloqui lunghi e particolari con gli attori stessi che durano circa un'ora e mezza, con chiaramente una riflessione sulla figura di Gian Maria Volonté e la consegna del premio Volonté, che quest'anno, dopo che negli anni, 2 anni precedenti, era andata a Jasmine Trinca e Stefano Accorsi e prima ancora a Valerio Mastandrea, a Luigi Locascio, a Fabrizio Gifuni, è andata a Michele Riondino. Detto questo, però, è stata la settimana della presentazione della lineup di Venezia 74, presentato il programma, 4 film italiani in concorso: Paolo Virzì, Sebastiano Riso, Andrea Pallaoro e i Manetti Bros. Poi arrivano al Lido George Clooney, Darren Aronofsky, Guillermo del Toro, Paul Schrader, insomma. Come sempre ci sarebbe, e lo faremo, svilupperemo anche più tardi i contenuti su Venezia, ci sarebbe da fermarsi e raccontare un po' quello che vedremo. Però ti chiedo, Boris, dammi un paio di highlight, 2-3 cose che ti fanno dire quest'anno Venezia è davvero particolare. Ma senza alcun dubbio, secondo me, c'è il fatto che questa della seconda tornata di Barbera è il miglior programma. Secondo me per 2 motivi. Uno, perché ci sono delle scelte felici, sicuramente io sono davvero molto interessato al film dei Manetti Bros, anche perché è quella zampata alla Barbera, no? Che magari ti mette per la prima volta un documentario in concorso e poi vince. Anche in questo caso diciamo che ci ritroviamo di fronte a un film che normalmente non avremmo immaginato in concorso. I Manetti Bros l'hanno proprio detto, insomma, commentando il loro arrivo tra i primi della classe a Venezia, hanno detto: non abbiamo la camicia giusta, speriamo che Venezia ci accoglierà per quello che siamo. Certo, adesso abbiamo paura perché prima eravamo nella comfort zone degli outsider e adesso siamo tra i grandi. E quindi mi piace molto questa idea, come mi piace per esempio il rischio di prendersi, di mettere Alexander Payne come film inaugurale, piuttosto che magari il più sicuro George Clooney, che sicuramente no, è più tra virgolette veneziano, ma anche più facile da mettere dentro. Ci sta anche la giusta furbizia, penso a quella pre-apertura a Piazza San Marco con Dunkirk, che sarà di lì a poco in uscita, che non è voluto andare a Venezia, ma che comunque rientra così nel programma. E la furbizia c'è anche nel portarsi a casa gli storici di Venezia, penso a Aronofsky, penso ai tanti registi che comunque a Venezia hanno trovato uno spazio importante, uno spazio che li ha apprezzati e che li ha anche lanciati, e che per fortuna di Barbera si sono ritrovati a chiudere il film poco prima di Venezia, e quindi quella sorte che di solito arriva a Cannes, quest'anno invece ha voltato le spalle proprio l'anno del settantenario ai francesi, e ha permesso a Venezia e a Barbera di fare un jackpot. Forse, se devo dare un altro highlights, devo dire che mi sarebbe piaciuto qualche rischio in più, per esempio un Gatta Cenerentola magari non a Orizzonti ma addirittura in concorso. Secondo me, insomma, non vedo perché le animazioni possano andare in concorso solo se sono di Miyazaki, però chiaramente parlo sempre, è sempre difficile parlare dei programmi perché magari perché non l'abbiamo visti noi, però l'impressione è che Gatta Cenerentola possa essere un altro piccolo capolavoro della Mad Entertainment, e forse bisognava avere qualche idea in più, insomma, ai programmi di Barbera manca forse ogni tanto qualche estremo, no? Un cinema o più sperimentale o anche più mainstream, diciamo, è molto controllato, è molto, non dico prevedibile, ma quasi. E poi manca molta periferia del mondo, c'è pochissima Asia, pochissima Est Europa, pochissima Africa, e invece siamo abituati comunque da Venezia anche ad avere uno sguardo più ampio. Nel complesso, però, ripeto, secondo me è il miglior programma sulla carta di quelli che abbiamo visto nella seconda tornata di Barbera, e già questo, insomma, fa venire voglia di andare al Lido, fa venire voglia di vedersi comunque una rassegna che ha un concorso notevole. In Orizzonti c'è anche tanto cinema, ma devo dire anche le sezioni collaterali, la settimana della critica diretta da Gianna Nazzaro e le giornate degli autori diretta da Giorgio Cosetti sembrano aver costruito dei programmi molto interessanti, e rispetto a quello di Barbera probabilmente più sperimentali e più coraggiosi, quasi a completarli. Quindi, insomma, mettiamoci comodi, aspettiamo e vediamo. Io credo che dovremmo essere ottimisti, insomma, su quello che vedremo, e penso che ci divertiremo. Moris, grazie allora per averci così introdotto nel tema veneziano, che più tardi in trasmissione riprenderemo. Sentiremo anche Carlo Chatrian, direttore del Festival di Locarno. Adesso linea alla viabilità, e poi torniamo insieme per parlare dell'unico film che popola le sale in questo fine settimana, Motori Ruggenti, fra poco qui col regista Marco Spagnoli. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta La Rosa Purpurea. La storia dell'automobile in Italia inizia alla fine del XIX secolo ed è un amore immediato, istintivo, incondizionato. L'auto ci accompagna ovunque, ma non può essere considerata solo un mezzo di trasporto. È una compagna delle nostre vite. L'automobile è anche molto di più. La sua nascita e la sua rivoluzione, infatti, hanno influenzato profondamente e positivamente la vita italiana, segnando più che altrove la storia della cultura, della società, della moda, della musica, del cinema e soprattutto delle vite di tutti noi. L'auto per gli italiani, l'auto per l'Italia. Abbiamo un rapporto speciale con la macchina, come la chiamavamo una volta, con l'autovettura, con l'automobile, con queste forme sinuose, con lo sprint, con l'accelerazione. L'Italia e le macchine, gli italiani e le macchine. E queste sono le argomentazioni, i temi che compongono la spina dorsale di un film di montaggio in cui il regista Marco Spagnoli sia ormai, diciamo, specializzato, è diventato un po' una sorta di cercatore con tanto di caschetto da minatore negli archivi cinematografici per ridare vita a queste immagini straordinarie, come succede anche in questo caso con Motori Ruggenti, che è una delle proposte nuove in sala questa settimana, un film distribuito da Walt Disney, 68 minuti di durata, per raccontare appunto questo rapporto, la passione tutta italiana per le macchine costruite, perché siamo oggettivamente imbattibili per quanto riguarda le leggende a quattro ruote che abbiamo creato in più di un secolo di storia, e anche per raccontare come il cuore dell'italiano batta per queste autovetture. Marco Spagnoli è in collegamento con noi. Ciao Marco. Sai, il senso di questo documentario era quello di raccontare che cosa ha ispirato la Pixar per una serie di film come Cars, come sono finiti i due personaggi italiani ricorrenti, che sono una piccola 500 di nome Luigi e una piccola assemblaggio di Vespe e altri materiali che si chiama Guido. Ecco, questa è stata un po' la scelta iniziale, e abbiamo lavorato in questo senso per raccontare come quella passione degli italiani abbia influenzato John Lasseter e la Pixar per realizzare Cars, che cosa li affascinava, il design, la costruzione, e soprattutto la parola ricorrente è la passione, seguita da un'altra passione ricorrente degli italiani, che è la libertà. Ecco, il mix tra la passione per le auto e la passione per la libertà è la base di Motori Ruggenti. Ecco, Motori Ruggenti quindi ci racconta quanta Italia anche c'è dentro nel sogno automobilistico americano, perché quando abbiamo visto già il primo Cars tanti anni fa, ci rendevamo conto appunto di, a parte di come dicevi tu, di questi protagonisti italiani, ma di come l'Italia fosse vista dagli Stati Uniti come la patria di una sorta di artigianato automobilistico di altissimo livello, che però non aveva perso il cuore. Esattamente, e soprattutto come dire, anche la capacità di manipolare le auto, manipolare sporcandosi le mani, non manipolare nel senso così teatrale dall'alto tirando dei fili. L'Italia è un paese di carrozzieri, cioè persone che hanno fatto le carrozzerie delle auto, hanno costruito i telai, è un paese di pezzi di ricambio, è un paese anche di persone con collezionisti che vanno in giro per i fienili, per i granai, e trovano dei relitti, come li chiamano loro, e piano piano li ricostruiscono nei weekend, ma magari passano il loro tempo libero andando in giro per fiere, per autoraduni, e trovare materiali per ricostruire queste auto con pezzi di ricambio originali. È una grande passione, ma è anche una forma d'arte per tanti motivi. Da un lato c'è sicuramente l'artigianalità italiana, ma al tempo stesso arte nella costruzione delle carrozzerie, nell'immaginare determinate vetture che hanno delle linee invidiate da tutti, e dall'altra parte arte nel senso più ampio del termine, perché ci sono questi artigiani che sono un po' in certo senso gli eredi delle botteghe rinascimentali. Alle volte ovviamente in quelle si facevano dei dipinti meravigliosi, delle sculture, qua si fanno delle auto che forse non sono proprio pezzi d'arte, ma che richiamano la cura che le sculture e i dipinti avevano. E forse lo sono invece in certi momenti. Mi fa ridere, Marco, sai che cosa? Che la macchina che ha, come dire, sdoganato il senso dell'autovettura, del potersi muovere in libertà per gli italiani, era la Topolino. E questo, cioè, ci dice che forse c'è qualcosa di scritto e di non detto nel passato, in una relazione fra il mondo Disney e gli italiani e gli automobilisti. Guarda, la cosa affascinante è che fu una scelta di Dante Giacosa di nominare la Topolino con questo nome, che chiaramente prendeva spunto dal personaggio dei fumetti più amato di quegli anni, forse anche di questi anni. Nell'ufficio di Walt Disney a Burbank c'è un'unica scultura, ed è una scultura che è stata donata dalla Fiat, c'è anche un filmato del luce che noi abbiamo nel documentario, ed è proprio una scultura di una Topolino. Questa sì è proprio il senso del legame. Tra l'altro Walt Disney ha visitato la Fiat in maniera molto approfondita nel 1961. C'è una foto di lui, credo, in una 600 seduto dietro. Per loro queste macchine dovevano sembrare, non so, minuscole rispetto alle macchine che soprattutto negli anni 50 c'erano in America, però hanno esercitato una grande fascinazione, tant'è vero che mi dicono i miei amici americani che secondo loro ci sono più 500 a Los Angeles e San Francisco che forse a Roma e Milano. Questo non so, ve la porto come osservazione, però effettivamente si vedono ogni tanto delle 500 in giro che sembrano quasi le navi di riporto delle grandi vetture, insomma. Ultima cosa, Marco, hai detto prima ovviamente che questo film distribuito anche dalla Disney è anche un qualcosa che ci accompagna verso l'uscita di Cars 3. Diciamole tre cose in anticipo su questo film, perché le prime immagini che abbiamo visto sono straordinarie, di un realismo che quasi sfiora anche lì una sorta di cronaca live in diretta televisiva di corse di macchine, cioè sono veramente impressionanti. Che salto di qualità rappresenta Cars 3? L'animazione fa dei passi da gigante anno dopo anno, ci sono computer che riescono a gestire quantità di dati enormi, basti pensare, credo che la Pixar sia la terza o quarta società per numero di computer per uso di materiale dopo il Pentagono, Apple e qualcosa del genere. La qualità è elevatissima. Diciamo che anche qui il regista Kevin Rare, con la supervisione di Lasseter, sono dei grandissimi appassionati di auto, infatti sono anche presenti nel documentario, quindi loro oltre a girare i film cercano di mettere proprio un'esperienza realistica per lo spettatore, ed effettivamente da tanti punti di vista, e soprattutto quello del suono, il suono digitale, adesso ci sono alcune sale in Italia che hanno l'Atmos, cioè che vuol dire che si può sentire l'audio anche che ti scende dal soffitto. Ecco, effettivamente vedere Cars 3 in una sala del genere vuol dire come sedersi con la cintura di sicurezza allacciata. Poi, senza esagerare, cioè, ovviamente c'è tutto il divertimento, la storia sportiva molto molto emozionante, ma al tempo stesso però la qualità è stata molto molto curata, perché tra l'altro il film racconta di una nuova generazione di auto che si confronta con una vecchia generazione di auto, e le nuove sono veramente dei siluri che vengono che fanno la loro figura. Anche visivamente poi la qualità, soprattutto il rendering dei colori, è particolarmente avvolgente e coinvolgente, quindi è un film che per gli appassionati della Pixar è un must, ma anche per chi non ha visto i primi film può andare a rivedere. Tra l'altro sappiamo che i bambini che 10 anni fa hanno visto tipo mio figlio Cars quando avevano 6-8 anni, oggi sono adolescenti o addirittura appena maggiorenni, quindi è un'esperienza diversa andare a rivedere questo film con un eroe come Seth MacQueen, che ricordo tra l'altro Seth MacQueen è di fatto il giocattolo, l'automobilina più venduta. Basti pensare che se tutte le auto che non sono state comprate solo da bambini ma anche dai genitori appassionati fossero messi insieme, si farebbe tutta la circonferenza terrestre, e in Italia si fa tutta l'autostrada del sole con tutte le macchinine. Quindi Franco, anche le tue macchinine possono mettersi in fila, anche le mie devo dirti, cioè quelle di mio figlio con cui ogni tanto gioco anch'io, però... c'è di buono che queste non devono fare benzina, diciamo così. Allora, ma sai, anche le macchine future non faranno benzina, saranno tutte elettriche, alle volte anche autoguidate, e qualcuno alla fine volerà, quindi la benzina ormai penso che sia un tema del passato, sia dal punto di vista così diciamo banalmente monetario, ma anche dal punto di vista ecologico. Penso che ormai benzina, diesel, insomma, Elon Musk dice tra 20 anni le macchine saranno completamente un'altra cosa. Quindi hanno le ore contate. Saremo vintage tra 20 anni. Appuntamento per l'uscita di Cars 3? 14 settembre, quindi al rientro delle vacanze noi saremo qui, ovviamente ve lo racconteremo. Marco Spagnoli, Motori Ruggenti, nel frattempo nei cinema italiani, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Marco Spagnoli per raccontarci questo che è di fatto l'unico film nuovo che esce in sala questa settimana, però davvero molto molto interessante da vedere. Giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. E a quelli che sono usciti a cavallo ieri spetta un whisky anche a loro. Un momento, calma. Ho detto calma. No, sono due. Ma dopo il secondo pagate di tasca vostra, ok Skinny? Un film che è già diventato un classico della cinematografia, che noi vi proponiamo in questa nuova versione straordinaria in Blu-ray 4K, e quindi anche se avete televisione di ultima generazione lo vedrete nel suo splendore. Scriveteci il titolo, il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Linea adesso alla regia, fra poco torniamo e apriamo la parentesi dedicata ai festival, perché mentre sta per cominciare il Festival di Locarno è stata annunciata la line-up del Festival di Venezia e quindi ne parliamo con tanti ospiti, restate con noi. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee, se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestie in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e i più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Ogni giorno vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano. Tutte le domeniche alle 19:10 e dal 31 luglio ogni giorno alle 16 qui su Radio 24. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, abbiamo parlato di questa settimana un po' atipica, con un solo film nuovo in sala qui sugli schermi italiani, ma anche con due festivaloni che spingono, uno perché Venezia è stata presentata alla line-up, l'altro perché Locarno invece sta cominciando proprio per quanto concerne i giochi, il festival vero. E allora, Locarno Festival da quest'anno, non più Festival Internazionale del Film Locarno, ma Locarno Festival, breve, asciutto, molto twittabile, e con noi c'è il direttore Carlo Chatrian. Ciao Carlo. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Molto twittabile, ti piace? Sì, sì, mi faceva sorridere. Senti... In realtà appunto l'esigenza di partenza era proprio essere molto pratici, nel senso che poi questo titolo lungo, che ricordava forse un'epoca in cui i festival, le mostre avevano dei titoli pomposi, male si adatta poi alla comunicazione, poi ognuno lo traduceva a modo suo, quindi abbiamo preferito fare noi un passo incontro ai twittettari o ai giornalisti. Senti, ma non è che ci perdiamo però in mezzo del film, cioè perché quel Festival Internazionale del Film e non del cinema era un po' la caratteristica di Locarno, cioè il fatto di dire noi siamo qui a farvi vedere i film, a scoprire i film, quello rimane, no? Sì, addirittura rimane, nel senso che credo che Locarno sia rimasto uno dei rari bastioni in cui il film, cioè la pellicola, ancora esiste, cioè ci vantiamo ancora di mostrare film in pellicola. No, rimane, i film restano al centro della nostra proposta. Al tempo stesso però abbiamo voluto in qualche modo mettere l'accento sulla parola Locarno e festival, perché i festival sono sempre più un luogo di esperienza, cioè dove i film sono proiettati nei loro formati originari, laddove è possibile, però dove creano esperienza, creano un ritorno. Penso che questa sia la caratteristica dei festival, e lo sarà sempre di più, ovvero non tanto, non solo mostrare i film prima di tutti gli altri in un modo che magari non si è visto, ma anche costruire attorno a questi film un discorso esperienziale, cioè trasmettere delle emozioni, che è poi ciò che il film fa sempre. Carlo, come sempre i punti nevralgici, da una parte il concorso, dall'altro Piazza Grande e poi tutte le scoperte nelle sezioni collaterali. Partiamo dal concorso, dacci un paio di highlight per i quali vale la pena venire a spendere un paio di giorni a Locarno. Beh, è un concorso quest'anno che ha due linee, penso, direttrici abbastanza ben definite. Da una parte il cinema americano indipendente ritorna, quattro film, alcuni che vengono da South by Southwest, che è uno dei festival più interessanti che si è canottato in modo molto interessante negli ultimi anni. Dall'altra parte un elemento che si collega all'altra linea direttrice, che è la forte presenza di documentari. Uno di questi quattro film è un documentario molto forte, si chiama Did You Wonder Who Fired the Gun, dove il regista va alla ricerca di suo nonno che sparò a sangue freddo da un afroamericano, e attraverso questa storia del passato ovviamente si dà un quadro dell'America di oggi. Ecco, la presenza dei documentari, che sono da sempre un punto forte di Locarno, quest'anno torna anche in concorso con alcuni nomi anche penso noti come One Being o De Nicoté. E l'altra chicca, almeno per me così lo è un film che è stato girato nel 1990, che era considerato perduto, un film di Raoul Ruiz che nessuno ha mai visto e che vede la luce 27 anni dopo. Il film ha un titolo che è già un programma, La telenovela errante. Passiamo a Piazza Grande. Piazza Grande invece, che cosa ci peschi in questo che è il cinema più grande del mondo? Ma quest'anno sono molto contento di poter raccontare appunto il cinema del mondo anche attraverso la presenza di interpreti importanti. Come sai, come sapete, Locarno è un luogo di scoperta ma anche di festa del cinema, e Piazza Grande è soprattutto questo. Quindi quest'anno la Piazza Grande parlerà molto francese, è una produzione che è sempre cara al festival ma che quest'anno mi pare essere particolarmente forte ed efficace. Andiamo da una Fanny Ardant che interpreta il ruolo di un transessuale, quindi come non l'abbiamo mai vista, alla poesia di Noemi Lvovsky e Mathieu Amalric in un film che aprirà proprio la Piazza Grande mercoledì 2. C'è spazio anche per il cinema italiano con il nuovo lavoro della Comencini, con un film che tratta da un suo libro, si chiama Amori che non sanno stare al mondo. E poi magari ecco un interprete che è più legato alla musica che al cinema, ma che si sta rivelando un'ottima attrice, Vanessa Paradis, con un film che è una commedia surreale, e anche qui il titolo già dice molto, si chiama semplicemente Cane, Chien. Ecco, le mie chicche invece erano due ripescaggi che siete andati a fare, la telenovela errante di Raoul Ruiz del 90, un film sul Cile sotto dittatura ritrovato e che tu hai messo addirittura in concorso, e trovo una operazione geniale, e un Godard dannata dell'86 pochissimo visto, e quindi come dire hai beccato due registi che sono due totem della storia del cinema e gli hai dato nuova vita. Sì, io credo che uno dei fili conduttori di questa edizione sarà proprio il lavorare con il tempo. Il cinema è il tempo ritrovato, perduto in qualche modo, e lo è ancora. Ci sono film che appunto arrivano dal passato ma che non sono mai stati visti, è il caso del film di Ruiz, o film che sono stati pensati per la televisione, è il caso di Jean-Luc Godard, e che al cinema quasi non si sono mai visti e che vedranno una vita nelle sale cinematografiche nell'autunno. L'idea è proprio di andare oltre il concetto di l'epoca in cui il film è stato fatto. I film sono sempre al presente, il film di Ruiz parte dall'idea di raccontare il Cile attraverso il titolo della telenovela, ma visto oggi questo film, e prima non è mai stato possibile vederlo perché era appunto considerato perduto, ci racconta molto della società in cui viviamo, cioè della società immateriale, della società in cui la realtà è evaporata. Godard dall'altra parte invece, come sempre, profetico, visionario. Il film Grandeur et Décadence è un lavoro che anticipa per certi versi la sua riflessione sulla storia del cinema, che ha due straordinari interpreti, Jean-Pierre Léaud e Jean-Pierre Mocky, il secondo regista e il primo produttore, che cercano di mettere in piedi una produzione cinematografica, ma che così facendo raccontano un po' quello che è dagli anni 80 in poi il grande tema ricorrente, ovvero la morte del cinema, che però come un'araba fenice risorge sempre dalle proprie ceneri. E allora, noi vi invitiamo a Locarno a questo punto dal 2 agosto, 10 giorni di grande cinema, che il nome sia lungo sia piccolo, importa poco, Locarno Festival porta sempre le consuete emozioni. Grazie a Carlo Chatrian. Grazie a voi. E allora, questo è stata la presentazione del Festival di Locarno, che è pronto a partire. Noi giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ma fin dove arrivi a vederla? Abbastanza lontano. Non andiamo nel Wyoming a sparare alle borracce, per Dio. Fin dove? A 100 yard? Di più. La vedi quella quercia laggiù? Vaffanculo. È cieco. Io non sono cieco, brutto stronzo. Calmati, stai buono. Insomma, ambientazione decisamente western, audio molto molto pulito, una versione straordinaria questa in Blu-ray 4K di questo film, di cui dovete darci il titolo con il vostro indirizzo alla rosa purpurea chiocciola radio24.it. Fra poco vi sveleremo di che film si tratta. E allora, abbiamo parlato di Locarno, festival che insomma sta proprio togliendo la pellicola alle porte d'entrata. Qualcuno invece è spostato in là di un mese. Ritorniamo a parlare di Venezia, l'abbiamo fatto in apertura di trasmissione. Abbiamo un altro parere che vogliamo farvi ascoltare, che è quello di Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, che è in collegamento con noi. Ciao Giorgio! Eccoci, ciao! Eccoti ciao. Qua, ciao ciao, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ti avevamo lasciato a Cannes l'ultima volta, ci hai raccontato del palmarès di Cannes. Ti troviamo a Venezia, non sei ancora fisicamente esattamente lì, però insomma è stata la settimana in cui la conferenza stampa ha svelato il line-up e come sempre sono partite i commenti, le polemiche devo dire no, ma insomma i commenti, le valutazioni un po' su quello che Alberto Barbera ha messo in campo per questa 74esima edizione del Festival di Venezia, che sarà aperta il 30 agosto da Downsizing di Alexander Payne, film molto molto interessante che racconta una società nella quale tutti potremmo diventare molto molto molto piccoli, miniaturizzati, e in questo le nostre ricchezze economiche diventerebbero spropositate, enormi. E questa è una fattispecie molto curiosa, di cui anche recentemente alle giornate del cinema di Riccione abbiamo visto qualche minuto con il protagonista Matt Damon. Questo sarà il film d'apertura di Venezia, ma Venezia come sempre è concorso, è sezioni collaterali, è grandi star che arrivano. Allora comincio a dire, io ho visto che il tuo commento, Giorgio, è stato positivo, hai detto mi piace proprio questo Festival di Venezia, perché? Mi piace proprio perché, a differenza di Cannes, che negli ultimi anni si è un po' ingessato nell'inseguire sempre gli stessi autori e storie tutto sommato simili tra loro, Venezia ha una libertà maggiore. Una libertà maggiore che si concretizza come linea, diciamo, editoriale nel mettere assieme cinema d'essè, ma anche cinema mainstream, quindi cinema degli autori americani celebrati, ma anche accessibili, maggiormente amati dal pubblico. E poi nell'andare a investire su tutta una serie di scommesse piccole e grandi che vanno dagli autori internazionali meno noti, ma fino anche al cinema italiano, e quindi una selezione di film italiani che è molto diversa, molto più varia, molto più fresca rispetto a quelle che noi ci attendevamo, per esempio, nella gestione Muller qualche anno fa. Ecco, per quanto concerne invece proprio il cinema italiano, quattro film in concorso, tra l'altro come sempre la capacità, devo dire, di alternare nomi che ti aspetti, Paolo Virzì, Manetti Bros, che sono diventati ormai, come dire, una componente importante del nostro cinema, con nomi meno conosciuti, Sebastiano Riso, Andrea Pallaoro, e quindi bravi in questo caso i selezionatori, bravo Barbera a mettere in concorso con coraggio anche cose che non sono quelle paludate di cui facevi riferimento tu, magari, che spesso Cannes tende a reiterare. Quelli in concorso a Cannes sono sempre gli stessi, sostanzialmente. Invece qui c'è questo coraggio. C'è questo coraggio anche perché, l'ha detto Barbera, questa volta abbiamo avuto provini di abbondanza. Cioè il cinema italiano a volte si diceva, però cosa metti? Hai messo quello, sì, ma non c'era nient'altro. Nonostante non siano ancora pronti i Moretti, Sorrentino, eccetera, eccetera, che chiaramente sono quello che ci aspettiamo, i Garrone, i Bellocchio, in questo caso c'è stato un problema di abbondanza, ha detto Barbera. Vuol dire che il cinema italiano è maturato, cioè che quelle scintille impazzite straordinarie, come i Gig Robot, come i film che ci hanno illuminato le ultime stagioni, stanno diventando materia, corpo del nostro cinema? Vuol dire perlomeno che c'è una generazione di registi giovani che pratica immaginari diversi, che sta crescendo e che sta crescendo bene. Io credo che l'abbondanza di cui lui ha parlato fosse proprio relativa a questa nuova ondata di autori giovani e di immaginari diversi, più che non appunto ai grandi autori che poi paradossalmente, secondo il discorso che facciamo prima, probabilmente finiranno proprio a Cannes. E tra l'altro io non sottovaluterei nemmeno, benché i Manetti Bros, come dicevi tu, siano un nome già un pochino più noto e nelle orecchie dei cinefili, il fatto che il loro film, che poi è un film che mette assieme tanti generi, dal musical al noir, sia stato scelto per il concorso, no? Questa è comunque una scelta coraggiosa, perché è un film fuori dai canoni e che può essere un po' inserito all'interno del rinascimento di genere che sta venendo su in Italia. Giorgio, per chiudere, un festival come Venezia non può preludere, diciamo così, dai tappeti rossi. I tappeti rossi sono fondamentali, sono il momento in cui lo star system incontra il suo pubblico. Quale dei tappeti rossi veneziani di quest'anno non ti perderesti? Beh, diciamo che quest'anno c'è l'imbarazzo della scelta, perché, per dire, se andiamo su quello di Barbicon di George Clooney, dove ci sarà lui e Matt Damon, che tra l'altro sono molto amici nella vita, già abbiamo assieme due delle più grosse star americane, due delle più grosse, delle star più amate dai cinefili, anche quelli un po' più pop. Però io, se devo dire proprio quello che scelgo tra tutti, forse è quello di Mother, il film di Darren Aronofsky, dove saranno presenti presenti il regista e quella che attualmente è probabilmente la più grossa star giovane americana, cioè Jennifer Lawrence, che tra l'altro sono anche una coppia nella vita. Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, grazie per aver inquadrato con la consueta sintesi e concisione il Festival di Venezia numero 74, di cui ovviamente parleremo diffusamente a tempo debito. Ci risentiamo qui alla Rosa Purpurea. Ciao, grazie, grazie mille. E allora siamo a questo punto a dare nuovamente la linea alla viabilità. Fra poco torniamo insieme. Un altro festival che si sta concludendo è il Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi. Ne parleremo fra poco col direttore Nello Correale e poi tutto il cinema da vedere in casa. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. L'alba dei morti viventi, il lungo addio, Ucronia, dopo un lungo silenzio e tanti altri episodi. Dylan Dog è tornato per tutta l'estate su Radio 24 e con lui Gruccio, le sue donne e i suoi nemici. Ci ritroveremo, Dylan Dog. Ci ritroveremo. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni domenica alle 20:10 su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, quarta parte della Rosa Purpurea. Come sempre, fra poco tutto il cinema da vedere in casa. Sveleremo il film misterioso di oggi, racconteremo chi sono i vincitori di una settimana fa. Prima però abbiamo parlato di grandissimi festival. Oggi è una giornata così, del resto un solo film in sala, tanti festival invece che incombono: Locarno che sta per partire, Venezia che è stata presentata, ma ci sono anche quelli piccoli, La Valigia dell'Attore, con cui abbiamo aperto il programma, e invece il Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi, che sta diventando una consuetudine sempre più gradita in una località strepitosa in termini, come dire, ambientali, e anche nell'ambiente in cui si proiettano i film. È un festivalino, come si suol dire, che pian pianino si sta prendendo i suoi spazi e il suo successo, grazie anche ovviamente alla direzione illuminata di Nello Correale, che è in collegamento con noi. Ciao Nello. Buongiorno, grazie. Eccoti qua. Allora, illuminata nel senso che tu hai illuminato un posto che era un avamposto di pescatori storicamente, diciamo, vicino alle Tonnare, in una Sicilia, la più meravigliosa delle Sicilie, e con un mare cristallino hai detto: qui faccio il cinema. Insomma, è stata una sfida, devo dire, no? L'hai fatto e pian pianino il tuo festival ti ha dato ragione. Festival del Cinema di Frontiera, perché il cinema deve essere frontiera, altrimenti è solo un pacchetto col fiocchetto che regaliamo a spettatori disposti a pagarlo. Invece noi vogliamo scoprire con il cinema, ed è quello che vuol fare anche il tuo festival, che sta per concludersi, si conclude domenica sera con i premi, ma che ha avuto intanto subito uno chaperon d'eccezione, Beppe Fiorello, sicilianissimo per aprire le danze, no? Sì, Beppe Fiorello di casa, qui ha girato e gira anche come Beppe Fiorello come persona, perché ci viene spesso, ci vive, è un luogo amato, e così anche per tanti altri attori che hanno frequentato il nostro festival, anche quelli con lo verso in questi anni e tanti altri. Cioè, il cinema di frontiera qui era quasi d'obbligo, quindi diciamo che non è stato molto originale il titolo, perché siamo ad una frontiera vera, intesa soltanto per il fatto che siamo qui con i piedi in Europa, però in faccia all'Africa, ma già per 75 miglia a sud di Tunisi ci fa capire che è un luogo che ha voluto mettere in imbarazzo chiunque si mettesse a giocare con i punti cardinali, perché qui un pescatore a Tunisi per venire a Marzamemi deve fare rotta verso sud per 75 miglia. Ecco Nello, mi incuriosisce proprio questa cosa: qual è il vostro pubblico? Da dove viene il vostro pubblico? Il nostro pubblico già dall'inizio, perché io quando ho ideato questa manifestazione 18 anni fa, perché ci avevo lavorato e anche per altri e con altri registi, tra cui Mika Kaurismäki, perché iniziamo così, il pubblico automaticamente, quello che si dice tra virgolette un pubblico internazionale, siamo stati obbligatoriamente a fare dei film e a raccontare delle storie che venivano da altri luoghi. Perché questo? Perché è la geografia che ha prodotto storie in questo luogo, quindi è un po' questo. Quindi un festival che porta turismo sostanzialmente, porta gente da altri posti. Sì, diciamo che il pubblico in questi 17-18 anni è per gran parte fatto da amanti del cinema e frequentatori del cinema di molte città, soprattutto del nord Italia, ma anche molti stranieri. Infatti io da quest'anno proprio finalmente ho fatto il grande passo, che non sembra facile, che non è sempre facile farlo in competizione in piazza, tutti i film in lingua originale sottotitolati. Questo ovviamente ha raccolto anche quel turismo di passaggio, di quell'estraneo temporaneo, come lo chiamo io, che ha il piacere poi di ritrovare o la sua lingua o le sue modalità di pensiero sullo schermo in una bella piazza come quella di Marzamani. Quindi ha avuto anche un doppio mandato questo festival, sia nei confronti del cinema ma anche nei confronti del pubblico. E infatti sei arrivato appunto su questa scelta, che è una scelta molto importante, quella del cinema in lingua originale. Noi da qui l'abbiamo sempre difeso e abbiamo sempre detto che quello è il modo di vedere il cinema, di sentire la recitazione, di sentire le onde proprio degli attori per come sono emesse, per come regalano il loro vestito al film. Guardi, adesso senza far filosofia, ma io credo moltissimo che in tutto questo dibattito che c'è anche nei festival, quelli veri, quelli grandi, per dire il film si vede in piccolo, si vede in casa, si vede sulla piattaforma, secondo me la cosa più importante è il film che si vede insieme a degli estranei in un posto. Cosa voglio dire? Che se vedo a casa un film, anche su un grande schermo, invito degli amici o degli conoscenti, invece in una sala, soprattutto all'aperto, si incontrano degli estranei, uno può essere di Gorizia, l'altro può essere arrivare da Malmo, e si incontrano e puntano lo sguardo verso lo stesso punto, che è già una bella cosa, avere mille persone che puntano lo sguardo verso lo stesso punto in questo periodo, ma soprattutto cioè, avere le stesse emozioni, ridere o come dire sentire qualcosa insieme al buio, no? Io forse in modo quasi così dico che lascia qualcosa in quel luogo, in quel territorio. Quindi questa è la cosa secondo me più rivoluzionaria, la vera frontiera è questa, no? Cioè avere questo momento. E a Marzamani con proiezioni, noi abbiamo 4 sale in contemporanea, 7 giorni di proiezione, più di 80 film tra lunghi, corti e documentari, quest'anno più di 20 anteprime, incontri letterari, incontri con gli autori e poi anche 2 workshop con attori e altri operatori del settore, filmmakers. Quindi tutte queste cose qui praticamente per una settimana è come impegnare l'intero borgo marinaro di Marzamani e diventa veramente un piccolo ambito internazionale, perché come dicevo arrivano gli appassionati e anche i turisti di altri paesi. Nello, per chiudere, un film, un titolo, solo un titolo di questa edizione che ti porti nel cuore? Io mi porto nel cuore un titolo che ho fatto fatica tra l'altro a prendere, perché pur essendo noi un piccolissimo festival ma internazionale, quindi vuol dire che noi già pensiamo da subito, quando l'abbiamo pensato, al mondo, quindi siamo piccolissimi, e il film è L'Ordine Divino di Petra Volpe, che facciamo in anteprima. La storia è veramente interessante perché racconta di una Svizzera del 1971, quando le donne non avevano ancora il voto. E la cosa che più mi ha impressionato in questo film è che la figura femminile, in questo film che io ho visto al Tribeca quest'anno, che ha avuto anche un premio, è quello che la donna italiana nel 1971 è molto più avanti di quella svizzera, perché loro non avevano il voto, noi ce l'avevamo, noi loro non avevano ancora l'emancipazione sessuale e compagnia e noi ce l'avevamo. Ecco, questo ribaltamento secondo me ha fatto anche impressione proprio in piazza ieri quando l'abbiamo proiettato qui in Sicilia. Ecco, allora chiudiamo idealmente il cerchio dei festival, perché parlato di un film svizzero che sarebbe stato bene a Locarno, invece ce l'aveva Marzamani, che da Locarno è piuttosto distante. Grazie Nello Correale, buona chiusura di festival e appuntamento poi al 2018 con il Festival di Frontiera, del Cinema di Frontiera di Marzamani. A voi, grazie mille. E allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione per raccontarvi tutto il cinema da vedere in casa con il nostro game della scorsa settimana. Quando Lefty Downer mi ha trovato a Montreal e mi ha detto che i pescatori volevano che lavorassi per loro, ho pensato che mi volessero fregare. Poi ho detto, se c'è uno che può incantare il diavolo, è il mio vecchio socio. E allora, si trattava della Legge della Notte, avevamo giocato con questo film, uno dei film che avevano aperto questa stagione cinematografica e che hanno indovinato, vincendolo, Andrea Cipriani di Padova ed Emanuele Iengo di Casoria, provincia di Napoli. Saranno loro a ricevere l'edizione in Blu-ray di questo film che ci facciamo raccontare nella sua edizione on video da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Il film racconta l'ascesa di Joe, questo fuorilegge irlandese di Boston, figlio del capitano di polizia, che prima è mattatore di una rapina malarmata fatta per amore di una, della donna del gangster, e poi è al soldo della famiglia del rivale che lo manda a governare la piazza di Tampa. Siamo negli anni del proibizionismo e la città della Florida è il covo di tagliagole del Ku Klux Klan, ed è lì che si è spostata la guerra tra irlandesi e Cosa Nostra, oltre ad essere lo snodo centrale del traffico di rum da Cuba. Insomma, un gangster bostoniano, come è normale nel cinema di Ben Affleck, ma storicamente adeguato. Affleck è un regista di talento, ma purtroppo la sua condanna è quella di essere anche a volte un attore troppo monocorde. Diciamo che questo film, che a tutto sommato è un bel film, risente della sua recitazione. Il Blu-ray ha un ottimo riversamento audio-video, niente da, come dire, nessun problema da riscontrare, scene tagliate con commento audio negli extra, e le scene, la cosa interessante è che non è che sono brevi appunti, breve scene, ma sono proprio sezioni del film alternative dove si varia la narrazione oppure si introducono prima del tempo dei personaggi. E poi c'è uno speciale di 7 minuti dedicato a una delle scene più belle del film, che è l'inseguimento tra vetture d'epoca, che è possibile ammirare nella prima parte della pellicola. E questo quindi per quel che concerne il nostro game della scorsa settimana, La legge della notte. Segnalazioni dai palinsesti della prossima, cominciando da domenica 30 luglio, dove, riallacciandosi al discorso che facevamo settimana scorsa sulla questa nuova vena del cinema bellico che sta ritrovando spazio nelle sale, andiamo a recuperare Ardenne 44, Un inferno di Sidney Pollack su Rai Movie alle 23:25. Sì, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di soldati statunitensi si insedia in un castello belga abitato da un conte, dalla moglie e dalla moglie, un castello pieno di opere d'arte, proprio prima dell'arrivo dei tedeschi. È un meraviglioso film bellico in cui Pollack si dimostra regista che è molto influenzato dal cinema europeo, infatti ci sono le musiche di Michel Legrand e modi di filmare le opere che sembrano allucinazioni, visioni che rimandano alla Nouvelle Vague. E tante volte questo film di guerra sembra girato come se fosse un polar, per poi trovare alla fine un respiro decisamente più classico, dove i rumori degli spari creano un inferno sonoro decisamente avvolgente. Insomma, un grande pezzo di cinema. E allora, questo è l'appuntamento con Ardenne 44, L'inferno, domenica 30 luglio, Rai Movie 23:25. Martedì 1 agosto, un capolavoro che è sempre bello vedere, La piscina di Jacques Deré su Rai Movie alla 1:15 di notte. Sì, siamo nei pressi di Saint-Tropez, c'è una villa con piscina, una coppia consuma un affiatato amore fisico, ma diciamo che la visita di un vecchio amico con la figlia diciottenne aumenta la tensione sessuale e l'aumenta fino alla tragedia. È un melò con ambizioni autoriali dove dominano i corpi al sole dei protagonisti, che sono Alain Delon, Romy Schneider e una giovane conturbantissima Jane Birkin, oltre a Michel Roné. E Deré, per la prima parte, sembra pensare a un cinema più classico, un po' alla Joseph Losey, poi è costretto a chiudere il cerchio puntando sull'intreccio giallo e raggiungendo la vetta di un film erotico meraviglioso, accaldato, sonnolente nel ritmo, ma veramente glamour, che è divenuto una sorta di grande cult in cui si esalta sia il gioco al massacro, sia il torbido labirinto psicologico formato da questi quattro personaggi, da questa doppia coppia. Come dire, un film assolutamente rilevante, che è stato omaggiato da Ozon, François Ozon, con Swimming Pool, e poi rifatto a modo suo, quindi molto sfacciato e anche abbastanza politico, da Luca Guadagnino con The Bigger Splash. E questo è l'appuntamento per La piscina, martedì 1 agosto, Rai Movie alla 1:15 di notte. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, c'è solo da ricordarvi e da svelare, anzi, il nostro film misterioso di oggi. Si trattava degli Spietati con Clint Eastwood e con questa versione in 4K, i cui vincitori annunceremo la prossima settimana. È tutto, grazie per averci seguito. La Rosa Purpurea torna sabato prossimo alle 18 qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.